benvenuti su Rigonia. Salve a tutti, sento un rimbombo della mia voce spaziale, non so da cosa sia dovuto, non importa. Primo dicembre 2024, 16.04 Rigonia. Questa puntata nasce come puntata sperimentale, ovvero principalmente dedicata a un amico, al quale sono abituato a mandare dei vocali, come a tutti del resto, e come tutti mi conoscono, dei vocali parecchio lunghi. E lui è entusiasta dei miei vocali e ascolta anche le puntate radio e mi ha rivelato che salta le canzoni e più di una volta ha insistito nel dire che avrei dovuto fare una puntata di solo parlato. Ora, io so, dalla mia esperienza radiofonica, lavorativa e non, che una puntata di solo parlato, ma anche per esperienze di ascolto, una puntata di solo parlato è una rottura di scatole immensa. Questo perché la mente naturalmente evade, nel senso la concentrazione va perdendosi e quindi anche, come dire, la capacità di una persona di seguire un discorso alla lunga deve essere in qualche modo sollecitata, risvegliata. E mi fa anche sorridere il fatto che è anche un principio della meditazione, il fatto che ogni tanto la mente meditativa deve essere in qualche modo riportata alla condizione iniziale contemplazione. Esistono varie tecniche, vanno dal contare dei numeri a memoria all'utilizzo di campane, all'utilizzo di strumenti di altro genere, soprattutto quando sei in un tempio, grazie al supporto degli altri, ma tendenzialmente l'importanza è proprio quella di riattivare l'attenzione e tornare all'atteggiamento iniziale. Ora, io è da molto tempo che non trasmetto e non è un caso, così come per la newsletter sto avendo una fase di poca ispirazione e anche di, in realtà, voglia un po' di raccoglimento, quindi poca voglia di esternarmi. È vero però che comunque c'è sempre una parte di me che ha bisogno di essere sollecitata, di tanto in tanto deve una scintilla che deve essere sparata nel cielo per poter illuminare la notte anche dei miei colori ogni tanto. Bella immagine. E quindi mi sono fatto, come dire, ingolosire da questa scommessa, da questo esperimento. Allora, siccome il mio amico vuole una puntata dove io parlo e basta, questo il mio amico riceverà, e anche chi avrà voglia di ascoltare, come per esempio Fred, che dalla chat di Radio Antidoto mi ha scritto qualche minuto fa che mi si sente forte e chiaro. Ciao Fred, ti abbraccio forte. E quello che mi sono concesso due, come dire, due strappi alla regola. Il primo strappo alla regola è il primo brano che avete sentito, che si intitola La Sinfonia dei Topi e degli After Hours. È un brano che ha già qualche annetto ormai e che è così tornato nel mio mondo qualche stamattina o ieri sera, riportato alla mente da un amico. Anche lui ascoltatore di Rigonia e lettore della newsletter, che saluto e che abbraccio. Lui stesso saprà riconoscersi. E questo è il primo di due brani che farò sentire, uno inizio e uno a fine puntata. La seconda licenza poetica che mi concedo è il sottofondo di Rigonia, che tra l'altro, come dire, ho fatto partire, ma volevo verificare se fossi in grado di gestirlo con i controller. Sì. È lui, eccolo qui, che mi servirà, come dire, ogni tanto per darmi un po' di respiro, ma anche per spaccare, insomma, farà le funzioni della campana tibetana negli esercizi di meditazione. Ebbene, quindi, l'altro motivo per cui mi sono detto potrebbe essere un buon momento per andare in onda è perché nell'ultima seduta che ho fatto con il mio analista è emerso il fatto che effettivamente è un periodo ricco di contenuti personali e tutto sommato non è una di quelle puntate in cui rischio di restare senza argomenti, o almeno il mio analista l'ho ammazzato di parole, quindi potrei riuscire ad ammazzare di parole anche voi. Dunque, come dire, l'inizio è la parte forse più complessa, perché poi a un certo punto probabilmente partirà lo stimolo, partirà l'ispirazione, quindi riuscirò ad andare liscio. Non so, non credo, non mi pongo l'obiettivo di parlare per un'intera ora, quindi anche un po' per assicurare le persone che eventualmente stanno ascoltando o che ascolteranno nel futuro. Però se ci riesco, sì, mettiamola così. È una sfida con me stesso, che in qualche modo vi tocca sorbirvi se schiacciate play, ma sono solo 10 minuti di trasmissione, quindi, come dire, cari ascoltatori, queste sono le colonne d'Ercole, cioè, nel senso, se non ve la sentite, staccate adesso e va bene così, tanto più che so che molti di voi apprezzano questo podcast, chiamiamolo così, dannazione, questa parola che odio, anche per la musica che vi propongo, e di musica quest'oggi ce ne sarà solo all'inizio e alla fine. Dunque, Dunque, questo è un episodio di Rigonia dove in qualche modo la butto sul personale, ma d'altronde ormai saranno anni che la butto sul personale con Rigonia. Sono lontanissimi i tempi in cui andavo a cercare gente da intervistare, che è una cosa che mi ha fatto pensare, perché risponde a delle mie meccaniche abbastanza ricorsive. Scopro dal programmino con cui faccio le immagini di copertina che questa è la puntata 35 di questa seconda stagione infinita, che credo sia iniziata nel 2021, adesso non vorrei sbagliarmi, o nel 2022, e che continua all'infinito, perché prima che io arrivi alla puntata 100 di sti passi ci vorranno altri 2 anni, ma non importa, nonostante anche i miei proclami estivi. E nasce un pochettino dal fatto che sì, è un periodo pieno di contenuti, ed è un periodo pieno di contenuti che si protrae da molto tempo. Sono circa 2 anni che in qualche maniera è come se fossi inciampato in un pozzo, mettiamola così. E è un po' difficile ogni volta iniziare questo discorso, perché l'inizio è coinciso con un momento di incredibile smarrimento, ma soprattutto di incredibile dispiacere, e poi in realtà nel tempo si è trasformata in una specie di avventura sciamanico trasformativa, per cui mi sento in un punto di questo cammino nel quale, dopo davvero tantissimo tempo, mi sembra di avere di nuovo le mani sul volante, ma anche no. Ma sicuramente, nel senso, questo senso di riappropriazione di me stesso, diciamo di controllo, anche se poi non è mica vero, perché già nel sistemare le impostazioni su Mix mi sono reso conto che ho dovuto riavviare il computer convinto che non funzionasse una cosa, in realtà ero io che non schiacciavo il menu giusto. Diciamo che in questo senso di autocontrollo, in realtà questo senso di autocontrollo in realtà è dovuto al fatto che in verità sto progressivamente imparando ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, e quindi, come dire, man mano che io miglioro da questo punto di vista, chiamiamolo così, divento sempre più sereno nel lasciare scorrere le cose come sono, paradossalmente guadagno più tranquillità, serenità nella gestione dei miei mezzi, ma anche più ottimismo verso il futuro, cosa che non voglio dire che era andata perdendosi, perché in qualche modo dopo la laurea, nei miei 30 anni, ho sviluppato questa incrollabile fiducia nel futuro che prima non avevo, e quindi non ho mai temuto che le cose potessero andare male, però effettivamente ho vissuto mesi e mesi di sofferenza e confusione, per cui era anche molto difficile, come dire, restare aggrappati a quest'idea, o quantomeno, più che restare aggrappati all'idea, a poter star seduto in compagnia di me stesso e sentire che quest'idea sgorgava da sé, nel senso, il pensiero che tutto andasse bene. Prima non era spontaneo come adesso sono incredibilmente fiducioso, anche se la mia voce forse tradisce altro, e forse gli umori sono un po' più tenui. Un percorso, quindi, che dicevo, di trasformazione e anche di scoperta. Proprio ieri o l'altro ieri, forse l'altro ieri, inciampavo su un contenuto pubblicato dal dottor Morelli, che continuo a seguire, non con la stessa assiduità di qualche mese fa, ma comunque di tanto in tanto mi fermo ad ascoltare qualcosa che dice, e è una cosa molto, molto interessante che lui suggeriva, è che alla fine il trauma dell'abbandono non è, come dire, non si nella sostanza non è l'essere lasciati da qualcuno o qualcuna, ma è il farsi lasciare da qualcuno o qualcuna per la volontà di veder nascere qualcosa di nuovo dentro se stessi. Ed è un bel modo di rigirare il calzino, nel senso che è un punto di vista interessante. E io su questo discorso dell'abbandono ci sono finito dentro, con tutti i piedi, con la testa, con tutto, appunto ormai parecchi mesi fa, e diciamo sono arrivato a un punto in cui mi sono dovuto arrendere al fatto che era esattamente quello di cui mi sarei dovuto prendere cura da qui a fin quando c'ho aria nei polmoni, penso. Naturalmente vado a braccio, quindi i pensieri e le suggestioni li produco man mano e decido qual è il punto di vista da intraprendere un poco alla volta. Ci tengo a precisare che appunto questo percorso, questa storia, questo capitolo della vita che è iniziato più o meno poco prima dei miei 40 anni e che si protrae quasi alla soglia dei 42, è stato un percorso molto bifronte, nel senso che da un lato ho vissuto queste esperienze di confusione, di sofferenza, anche un po' di sconfitta, di rammarico, di come dire, di frustrazione, senso di impotenza. Dall'altro ho vissuto esperienze fantastiche, ho conosciuto persone nuove, continuo a conoscere persone nuove, continuo a intrattenere conversazioni interessanti, ma anche a dar vita a relazioni profonde e importanti. Ho fatto molte belle esperienze nuove, ma anche molte belle esperienze in cose che ho continuato ad andare avanti, perché uno degli aspetti più interessanti di questa crisi decennale, ecco, ormai io mi ci sto abituando al fatto che ogni 10 anni mi si scatena qualcosa tra capo e collo, per cui sembra che debba resettare tutto. Per la verità, in questa circostanza, in questa particolare istanza della mia crisi decennale, io non ho rinunciato a nulla, cioè sono ancora sposato, anzi ho comprato casa, continuo a praticare lo sport di cui ogni tanto parlo anche su queste reti, tra l'altro con buon profitto, almeno così sembrerebbe, e sicuramente con mia grande soddisfazione, e continuo a seguire il mio progetto musicale, che adesso si è anche a quale si è unito un nuovo membro, e siamo molto felici di averlo con noi, quindi da 2 siamo passati in 3. E tendenzialmente ho portato avanti le mie attività più o meno ludiche e videoludiche con gli amici di una vita, ma anche con amici nuovi, e negli anni ho ricominciato a frequentare la montagna sempre più assiduamente, e in realtà devo dire c'è tutta una fetta della mia esistenza che si configura esattamente come avrei voluto che fosse, cioè il 50, se non addirittura il 70, se non addirittura l'80% della mia vita è la vita dei miei sogni, cioè era esattamente quello che volevo vivere quando sarei diventato un adulto, ed è una cosa, come dire, straordinaria, nel senso da un lato appunto avere questo senso di frustrazione, di rassegnazione, però allo stesso essere riusciti nel tempo senza neanche troppa testardaggine, ma con la semplice voglia di andare avanti a proseguire appunto in tutte le cose che stavo facendo, ma anche nel proseguire nelle cose che stavo cercando e trovandole, progressivamente trovandole un pezzettino alla volta, in maniere sempre, come dire, sempre inattese, ma proprio perché inattese, anzi quasi più belle di quelle che in fondo poi erano le attese. E l'altra parte interessante di questo percorso è anche la riscoperta del passato, la riscrittura del passato, quindi ritrovarmi con gli amici di una vita e guardare alle cose della mia vita attraverso i loro occhi con uno sguardo diverso, e quindi in qualche modo realizzare che una vita che io, di cui io ho sempre avuto un'opinione abbastanza sufficiente, non voglio dire bassa, non voglio dire brutta, ma voglio dire sufficiente, in realtà, come dire, si è potuta, in realtà è stata, come dire, gratificata, non so come dire, può dirsi grata di aver vissuto tantissime belle esperienze, ma anche di aver segnato la vita di molte persone. Quindi anche riascoltando le mie vecchie canzoni, anche ripensando a certi eventi della vita, mi sono reso conto che forse il mio contributo era molto maggiore di quello che io fossi disposto a concedermi. Quindi in qualche maniera un percorso di trasformazione, ma anche di risveglio, cioè di riconoscimento di alcune qualità di me che probabilmente gli altri ce l'hanno sempre avute davanti, mentre io non ho mai avuto, come dire, la bontà verso me stesso di riconoscerle. E una cosa in particolare che ho iniziato a capire nel tempo di recente è la mia, come dire, è la differenza, è la differente qualità dell'esperienza del quotidiano rispetto a gran parte delle persone che conosco. Una delle riflessioni più grosse, anche un po' più complicate, che mi sono ritrovato a fare quest'estate, che io non ho mai conosciuto nessuno come me, nel senso non conosco una persona che parla come me, non conosco una persona che vive le cose come me, e per la verità mi piacerebbe conoscerla, e mi piacerebbe avere un amico come me, perché mi rendo conto che c'è qualcosa nel modo in cui io sto al mondo che è di una qualità un po' differente, che, come dire, tradisce una certa unicità. Certo, non voglio avere la presunzione di dire che non esistano in senso assoluto, esisteranno altre persone come me, ma è un po' come se fossimo molto molto sparpagliati, e da un lato è, cavolo, una realizzazione gigantesca, importantissima, dall'altro c'è sempre il rischio di sentirsi un po' come il mammut nell'era glaciale, cioè alla ricerca della propria famiglia senza mai veramente avere l'opportunità di trovarla. E diciamo che questo pezzo di consapevolezza è anche forse l'ultimo pezzo che ho visto aprirsi poco alla volta sotto i miei occhi, perché ho realizzato quanto io in realtà faccia fatica a stare dentro una sola dimensione, che sia la dimensione dello sport o di uno sport o della musica o di una musica o di un gruppo di persone o di un ufficio rispetto a uno spazio più ampio di lavoro. È sempre come se io avessi bisogno di molto più spazio per respirare, per sentirmi vivo, per sentirmi attivo. Quindi il bisogno di uscire dalle porte, uscire dalle stanze, uscire dai gruppi, uscire dalle situazioni, non per abbandonarli ma per rientrarci, però allo stesso tempo cercando appunto questo continuo ampliamento, questo continuo senso di spazio, di apertura, di cui avevo peraltro parlato in alcune delle ultime puntate di questa primavera, adesso che mi viene in mente. E questa cosa qui mi ha colpito un sacco, nel senso mi ha posto in un, come dire, in un rapporto di confronto, di confronto con il resto delle persone che mi stanno attorno, abbastanza importante. Mi ha ricordato alcune mie abitudini da ragazzo e mi ha ricordato anche come dire, le esperienze scolastiche, in generale il modo in cui io ho sempre condotto la mia vita, nel senso sì, qui, ma anche lì, ma anche là, e in tutte e tre le parti e in nessuna delle tre parti. E questo perché la cosa di cui mi sono reso conto, in realtà molto presto nella vita, è che va avanti replicandosi ovunque io vada sempre, che in fondo è una cosa che con cui sarebbe veramente necessario io venissi a patti, cioè anche, mi ci sono anche laureato in questa cosa probabilmente, è il fatto che in ogni sistema presto o tardi si crea un circuito chiuso di autoreferenzialità, quindi all'interno di un gruppo di persone che fanno cose, quali che siano, diciamo, si creano degli equilibri per cui il gruppo è sufficiente a se stesso e non ha più bisogno di confrontarsi con l'esterno, e questa è, come dire, per me è l'inizio del senso di scollamento, perché non, per me in realtà, per come funziona la mia testa, il consolidamento di un gruppo dovrebbe essere l'inizio il confronto con l'esterno, e i gruppi non sembrano funzionare così, almeno non nella mia esperienza. Quindi arrivo a un momento in cui per qualche maniera la mia individualità ha bisogno di scollegarsi, di prendere percorsi alternativi, di creare ramificazioni. E la cosa che in qualche modo sto cercando di fare, di realizzare nel concreto, fare in modo che questa mia abitudine a vivere tante dimensioni contemporaneamente non mi precluda il fatto di abitare una dimensione in particolare, perché un conto è, come dire, in una stanza chiusa aprire le porte e le finestre, e un conto è uscire da questa stanza per mai più tornarci. Questo perché mi è capitato nella vita, ed è una delle mie, come dire, delle mie scene madre, dei miei traumi fondamentali, il fatto che sono stato portato via da stanze, da spazi, da dimensioni, da realtà in cui io avevo molto piacere a stare, anche un po' forzatamente, e quindi un mio meccanismo di autodifesa è quello di dire vabbè, qua dentro io non c'ho più niente da fare, tanti saluti, arrivederci. E di fatto lo sto facendo anche su Radio Antidoto, nel senso che non sono più tanto presente, ma non sono neanche assente. Non voglio negarmi il piacere di poter tornare in onda di tanto in tanto, o se mi è possibile di ascoltare qualche diretta quando ne ho l'occasione. Semplicemente sono diversi tempi da cui appunto si passava intere giornate chiuse in casa ad ascoltarci gli uni con gli altri. Per mie mancanze, per miei limiti personali, non sono quello che poi alla fine la radio l'ha fatta espandere, l'ha fatta ingrandire. Io sono quello che viene qui, fa questa cosa, quella che sta facendo in questo momento, poi ringrazia, saluta, se ne va, cercando di occupare il meno spazio e di fare il meno rumore possibile. Però questa dimensione della percezione è diventata una cosa abbastanza prepotente, nel senso che, arrivato appunto a 41 anni, che non saranno 100.000, ma comunque sono una bella età, mi rendo conto che è diventato sterile e anche un po' fine a se stesso confrontarsi con persone che invece hanno, come dire, una capacità di adattarsi meglio a degli ambienti molto circoscritti, però allo stesso tempo di abituarsi a questi e non andare oltre. Quindi è come mettere mele con le pere, è come voler far dialogare due sistemi operativi diversi a tutti i costi, e spesso e volentieri questa cosa funziona soltanto se si diventa consapevoli e si accettano i limiti di questa comunicazione. Cioè, a un certo punto semplicemente non può funzionare, perché tu stai bene dove stai, anzi stai benone, stai benissimo, e io sto bene dove sto, ma il dove sto io non è un singolo posto, ma sono 5, 6, 7, insomma quanti più ne riesco a frequentare nella vita, anche se chiaramente più passano gli anni meno ci sono le forze per tenere questo passo, questa costanza, però la mia mente ha bisogno di stimoli costanti e regolari, e quindi questo lavoro lo devo fare, devo farlo. Ma soprattutto la cosa bella è che alla fine mi viene abbastanza istintivo, abbastanza naturale, quindi la peggiore violenza che posso fare a me stesso è quella di costringermi a stare in un posto e starci bene a tutti i costi, solo quello, sempre con le stesse persone. Quello è proprio uno sbaglio gravissimo che in qualche maniera ho dovuto reimparare in questo mio percorso. E allora diciamo che tra le tante cose che in qualche maniera ho dovuto rivedere, ho dovuto riscrivere, c'è anche il mio rapporto con la femminilità, e molte di queste cose, molte di questi pensieri, queste pratiche anche quotidiane le sto sviluppando attraverso il dialogo con delle donne che sono mia moglie, ma che sono anche delle amiche, che sono anche delle colleghe, e senza le quali non avrei potuto neanche fare mezzo passo verso questa direzione, e il loro contributo è enorme, ed è anche a sua volta uno spazio, nel senso uno spazio di diversità, nel senso che in qualche maniera sentirsi accolto dal genere femminile in un confronto che è una conversazione, quindi poter parlare delle cose della vita e del mondo, mi dà l'opportunità di, come dire, nutrirmi anche di quel punto di vista che comunque in qualche maniera è sempre diverso dal mio e segue criteri diversi dei miei, e per certi versi prende le faccende della vita meno sul personale. Diciamo che la mia impressione è che io, in quanto maschio, prenda sul personale un certo tipo di cose, e le femmine, in quanto femmine, prendano sul personale un altro certo tipo di cose, e questa cosa qui nell'incontrarsi diventa molto preziosa, diventa costruttiva, diventa veramente l'opportunità di imparare, di guardare il mondo anche con gli occhi di qualcun altro. E tra le altre cose, la cosa migliore, ma questa è una cosa di cui ho parlato lungamente in tanti contesti, è proprio la condivisione della fragilità, cioè che in qualche maniera è anche quello che sto cercando di fare in questa puntata, ovvero sicuramente ho avuto bisogno di nascondermi per parecchi anni, perché avevo bisogno di proiettare nel mondo un'immagine sempre positiva di me, e perché avevo bisogno di lavorare, cioè non ci voglio girare troppo attorno, cioè avevo bisogno di lavorare, ma avevo bisogno anche di fare la radio, ma avevo bisogno anche di suonare, avevo bisogno anche di fare sport, e quindi avevo bisogno di avere una relazione sentimentale, quindi ho messo sul tavolo tutte le energie positive e costruttive che potevo avere in corpo, e probabilmente appunto questo investimento sul positivo alla fine è imploso, probabilmente c'è stata un'implosione per cui tutte le parti invece ferite e doloranti di me stesso, nel momento in cui ho firmato un contratto a tempo indeterminato, ho iniziato a pagarmi un mutuo, ad avere le ferie pagate e degli orari di ufficio molto chiari e netti, quelle parti di me hanno iniziato a sgorgare come acqua da tubature forellate, cioè ne tappi una, esce fuori un buco da un'altra parte, lo tappi, esce fuori dall'altra parte, fin quando la smetti di cercare di tappare i buchi. Non ci sono buchi da tappare, è soltanto il tubo, è fatto così. E nell'idraulica magari un tubo lo puoi cambiare, ma nella vita no, io sono questo tubo qui e perdo acqua da tutte le parti e non sono diverso da un sacco di altri tubi. Quindi, e per la verità, appunto, la cosa straordinaria, la cosa che più di tutte probabilmente mi ha lasciato a bocca aperta negli ultimi mesi è stata quella che tanto più io ho mostrato quest'acqua a scappare da tutte le parti, tanto più ho creato relazioni solide, concrete. Certo, c'è una percentuale di persone che sono scappate nel vedere la mia... carino, Bonelli suggerisce usarlo per innaffiare. Ed è così, nel senso, su Telegram mi scrive che questo tubo bucherellato si potrebbe usarlo per innaffiare. In effetti quell'acqua ha innaffiato le mie relazioni, quell'acqua ha innaffiato dei rapporti che sono diventati molto più solidi, molto più intensi, molto più profondi, molto più ricchi, molto più appaganti. E quindi parte di questo percorso è anche la capacità di rimanere immobili e di osservare il mondo, perché poi, come dire, l'esercizio, un pezzo grosso di questo esercizio è stato cercare di assumere un punto di vista esterno, cioè smetterla di guardare le cose, per quanto faticose e problematiche, sempre dal di dentro, dalla dimensione della fatica e dei problemi, ma guardarlo dal di fuori, come se queste cose accadessero a qualcun altro. È una cosa che ancora non mi viene particolarmente bene, ma che sicuramente, su cui sono sicuramente migliorato parecchio, anche appunto grazie a queste conversazioni col mondo femminile, queste conversazioni sulla vulnerabilità, ma anche nel mostrare le lacrime, nel piangere. Mi sono mostrato dolorante e piangente davanti a molte persone, anche sconosciuti, che non hanno battuto ciglio. Non dico che sembrava altro che aspettassero, non sembrava altro che aspettassero di potermi accogliere in questa dimensione, però erano pronti, non sono scappati da nessuna parte, non mi hanno allontanato, non hanno avuto paura delle mie sofferenze, anzi l'hanno compresa e mi hanno preso per mano, mi hanno fatto fare un pezzo di strada con sé, e loro hanno fatto un pezzo della loro strada con me, e ogni tanto ci si rincontra, ogni tanto no, e questa è stata una delle cose più belle e importanti. Questo mi ricorda una cosa su cui sto lavorando, cioè sto lavorando volteggiandoci attorno come un uccello, perché è un po' difficile da definire, è un concetto molto molto fragile, molto vago, però ha un suo fondo di verità, ha a che fare con la profondità, nel senso quello che in qualche modo mi sono ritrovato un po' sbattuto in faccia, nel bene e nel male, è stato che io ho una profondità di emozioni, di sentimenti che non è comune, e anzi forse sono nato nell'epoca in cui avere sentimenti così profondi è anche visto come una forma di debolezza e di fragilità, un po' come l'essere persone mentali, essere pensatori, sono tutti aspetti che in un'epoca iperindividualista, ipermaterialista mettono un po' paura, perché sono tratti che ti costringono a rallentare, sono tratti che ti costringono a fermare, e sono anche motivi per me di frustrazione, perché anche a me piacerebbe spingere tantissimo i 200 all'ora e fare, mostrare quanto sono bravo, invece sono un animo sensibile e ho bisogno di tirare il freno, ho bisogno di guardare il vuoto, guardare l'orizzonte, emozionarmi davanti all'albero gigante che ho fuori dal terrazzo di casa mia, o le montagne che vedo dall'altra finestra. Insomma, ci sono tutti degli aspetti percettivi e di sensazione che in qualche maniera hanno smesso di accettare di essere delegati, relegati in secondo piano, che hanno iniziato a esigere invece tutta l'attenzione di cui avevano bisogno, e il bello è stato scoprire che questi tratti tratti di personalità possono essere apprezzati, posso distribuirli in giro, soprattutto se col giusto grado di autoironia e di leggerezza posso distribuirli in giro e non spaventare nessuno, anzi creare appunto connessioni intense e floride. Per cui io l'altro giorno, che ero in ufficio, una persona con cui ho avuto delle bellissime chiacchierate senza stare lì a dirle nulla, sono entrato, le ho dato un bacio sulla fronte e poi me ne sono tornato a lavorare. E sono i bei gesti che ormai quasi quotidianamente vivo, ricevo o offro e che mi danno tanto. Te che sei arrivato a 40 minuti di trasmissione, questa è Rigonia del 1° dicembre 2024, sono le 16:42 e io ho parlato per 40 minuti, perché questa è una trasmissione in cui io, come dire, regalo un'ora di solo parlato a un amico che tempo fa mi ha chiesto una trasmissione così, perché lui è un mio fan e gli piace la mia voce, mi piace ascoltare mentre parlo. E anche questa è forma di gratitudine. La gratitudine è un argomento enorme, un argomento gigante. Certo. Scrive Bonelli, mi scrive Citua alle 16:42, lui che non sta mollando un cazzo, l'unico ascoltatore in diretta, penso, di questa trasmissione, e si sta succando al mio fiume di parole. E Bonelli è una persona di cui sono grato, per esempio. E una cosa che ho letto in tutti questi mesi, è che uno dovrebbe fare esercizio di gratitudine al mattino. E quanto pare, se uno si svegliasse al mattino e dicesse grazie per Bonelli, grazie per l'amico che adora la mia voce, grazie per la persona che mi dice grazie alle tue trasmissioni ho scoperto un sacco di bella musica, grazie ai compagni di squadra, eccetera eccetera, se uno si svegliasse al mattino e ringraziasse per tutte queste cose, per mia moglie, per la casa, per il fatto che comunque sono una persona in salute, insomma, se riuscissi veramente a farlo il mio cervello si ricalibrerebbe. In inglese si dice rewiring, ricablerebbe. E quindi, come dire, i pensieri costruttivi e positivi si nutrirebbero di questi atti di gratitudine, ma io non sono capace, che cazzo vi devo dire? Nel senso, non è che sono ingrato, anzi, il punto è proprio che invece sto uscendo da questa rinascita proprio grazie all'aiuto degli altri, cioè sono persino, come dire, abbagliato, paralizzato dalla bellezza di quello che ho ricevuto, dalla ricchezza delle cose che ho ricevuto. È anche difficile verbalizzare, cioè difficile verbalizzare senza diventare retorici. Uno poi quando dice queste cose ad alta voce, io per esempio mi chiedo sempre, ma starò restituendo? Cioè, io penso di sì, cioè io penso che se ho ricevuto così tante, perché evidentemente ho dato parecchio, però dire queste cose ad alta voce è sempre un sacco pericoloso, perché cioè, il karma ha un umorismo tutto suo, un modo tutto suo poi di rigirartele queste cose qua, ed è anche il motivo per cui appunto, questo è anche un altro blocco concettuale che mi ero messo da parte per riuscire a sopravvivere a un'ora di me stesso, che poi è anche, insomma, un esercizio anche spirituale, meditativo. Cioè io adesso sto buttando fuori cose, ma devono essere cose sensate, cioè non è che posso buttare fuori cose così. Non riesco ad avere un tono dell'umore alto, non ci riesco, cioè la cosa che più si avvicina a un tono dell'umore alto sono gli app. Quindi vado in app questa settimana, è stato mercoledì, adesso non mi ricordo più il giorno esatto, penso mercoledì, sono andato dall'osteopata dopo tantissimo tempo, lui ha fatto le sue cose, mi ha tirato, mi ha strizzato, mi ha piegato e mi ha fatto male, a un male da morire, quando sono uscito fuori da lì ero leggero come una piuma, felice, soddisfatto, mi ero fatto una bella chiacchierata con un ragazzo simpatico con cui ho degli scambi interessanti e lui mi aveva sprimacciato i muscoli che finalmente erano un pochettino più rilassati e ben disposti nei confronti della vita e del mondo. E ho passato una serata fantastica, cioè dalle 8 alle 18 era stata una giornata di merda e dalle 18 alle 24 è stata una giornata fantastica, per cui quando mi sono andato a dormire ho pensato che bello, che bella giornata. E però appunto sono gli up, dalle 8 alle 18 ero in down e la cosa migliore che riesco a fare in questo periodo, piuttosto che stare sempre up e down, perché ti toglie anche molta energia avere questo tipo di vivere questa dimensione umorale, è avere un tono di umore medio basso, cioè tenere le aspettative basse riguardo alla possibilità di essere brillanti durante il giorno. Poi fortuna vuole che riesco sempre a regalare un sorriso a tutti, almeno ci sto provando, più che altro perché mi piace avere degli scambi scherzosi con le persone, però è anche vero che persone che sono abituate a vedermi più di buon umore di recente mi hanno fatto notare che insomma non molto bene. Io non ho deciso che non mi interessa, perché è molto vera una cosa che anche questa ho imparato nei mesi e che c'entra tantissimo lo zampino di Morelli, e cioè il fatto che alla fine il dolore è un grande insegnante, cioè è più che altro è attraversando il bosco del disagio, della frustrazione, della sofferenza, del fastidio che poi scopri, come dire, la fonte, scopri gli spazi aperti, scopri le dimensioni nuove del benessere. Quindi non ho neanche fretta di essere di nuovo allegro e sereno, sempre che io lo sia mai stato. Sicuramente sono stato più sereno di così, più convinto di me stesso di così. Forse il concetto giusto è la convinzione in me stesso. Però è vero che mollando un po' i remi, lasciandomi andare un po' a delle emozioni complesse che prima facevo fatica a reggere, mentre adesso bene o male le accetto, non mi pongo più problemi, effettivamente quello che ci trovo dietro è sempre una bellissima predisposizione d'animo invece nei confronti di me stesso e un po' anche del mondo. Il mondo mi è un po' scaduto, devo dire la verità, e mi sono ricordato perché comunque dopo l'università per qualche anno ho vissuto in maniera abbastanza eremitica, cosa che in realtà non posso neanche dire di fare adesso. Sono dimensioni molto estreme dove passo molto tempo circondato da molte persone, però ne passo altrettanto completamente da solo e magari completamente inerte, quindi è un po' difficile, è un periodo appunto in cui è difficile trovare la dimensione di mezzo. C'è tanto stare con gli altri in presenza o virtualmente, ma c'è anche tanto lo stare da soli, e c'è tanto up e c'è tanto down, e c'è tanto questo senso di quando le bocce si fermano, quando la giornata rallenta i ritmi, c'è questo senso un po' di pesantezza, il senso che non sto vivendo un bel periodo della mia vita, sto vivendo un periodo difficile della mia vita, nonostante tutto, perché poi cioè, appunto mi viene difficile appunto venire al microfono, parlare così per un'ora e non citare tutte le cose buone e belle che mi stanno capitando, perché tra le altre cose in cuor mio non sento di aver meriti a riguardo. Cioè sì, ho il merito che sto imparando delle cose importanti, sto imparando a comportarmi, a vivere un determinate dimensioni della vita con un certo tipo di solidità, nel senso senza lasciarsi trascinare giù, senza farsi problemi di sorta, senza paura, e tutto il resto è come dire è come se mi venisse, come se fosse un premio, come se venisse regalato, è come se fosse la dimostrazione. Ogni volta che faccio questa cosa, ogni volta che ho una bella interazione o passo una bella serata in compagnia o una cosa della vita succede ed è una cosa positiva, io penso, il mio umore non sarà chissà che cosa, io non mi sentirò particolarmente la versione più figa di me stesso degli ultimi 20 anni, però cavolo, funziona, cioè in qualche maniera sta funzionando. Che un po' anche, come dire, probabilmente la conclusione ideale è anche la dimensione dell'attuale, cioè come stai Francesco? Ma non sto particolarmente bene, però sta funzionando, cioè, però le cose positive ci sono, cioè le vedo, è semplicemente che non riesco semplicemente a aprire, cioè non riesco semplicemente a sganciarmi da quelle che invece sono state le situazioni dure e pesanti del passato, perché ho bisogno di una struttura differente, ho bisogno di certezze differenti, ho bisogno di sapere che le modalità e i metodi per non ritrovarmi più in quelle dinamiche adesso sono consolidate, perché ripetere certe esperienze non ne ho più voglia, non sarebbe giusto nei miei confronti né della persona che sono oggi, ma neanche la persona che sono stato per 40 anni, perché poi alla fine, in conclusione, cioè questa è sicuramente una rinascita, la consapevolezza che forse il mio obiettivo nella vita, più che fare 100.000 puntate di Rigonia o pubblicare libri o dischi, è quella di prendermi seriamente cura dei miei dolori interiori, però allo stesso tempo di farlo rendendomi conto che questa cosa, questo viaggio mi ha permesso e mi permette di dare un sacco alle persone che attorno, e io potrei tranquillamente dire che Federico Bonelli, adesso non so se mi sta ancora ascoltando, la domenica pomeriggio mette su Radio Antidoto ad ascoltare Rigonia perché non c'è un cazzo di meglio da fare, però la verità è che lo sta facendo, lo fa, è qui con me, e quindi io devo avergli lasciato qualcosa a questa persona. Io so che lui ha lasciato qualcosa in me di importante e mi nutre molto, e gliene sono grato e gliel'avrò detto un miliardo di volte, ma allo stesso tempo qualcosa avrò lasciato io a lui, ed è anche il motivo per cui sono venuto in onda, anche perché così questo podcast io lo linko alla newsletter e mando anche la newsletter, perché a un certo punto, vabbè, non lo so, il grande romanzo del nuovo millennio non ve lo scrivo, non vi scriverò il disco che farete ascoltare i vostri figli e direte: cavolo, questo è Francesco Rigoni, che non lo sai. E probabilmente non è quello il punto, però il punto è: devo fare questa roba perché è la cosa che sto consegnando al mondo, sto consegnando a voi, è la cosa che mi aiuta a prendermi cura delle mie sofferenze. E tempo fa ho parlato in una newsletter del personaggio di Chirone e mi stava un po' sul cazzo sto Chirone, perché poi sto Chirone alla fine ha passato la vita a soffrire e sì, a curare gli altri, però poi lui soffriva e poi è morto di questo dolore. E inizialmente, quando ho letto la sua storia, la vivevo un po' così. Adesso che sono entrato un po' dentro questa cosa del, passatemi il termine, dello stare male, e ci ho preso confidenza, e dentro questo stare male generico mi ci trovo bene, io comincio a capirlo Chirone, nel senso, per carità di Dio, non sono Ercole, non sono Apollo, però ho degli strumenti che mi permettono di vedere la vita con degli occhi che sono degli occhi di serenità, degli occhi di presenza, di consapevolezza. Non sono Chirone, però adesso una persona che sta vivendo un brutto periodo, una persona che è in difficoltà, insomma, qualche cosa in più glielo so dire, ecco, mettiamola così, qualche cosa in più glielo so dire, e questo passa anche attraverso un racconto di me stesso come questo, che è anche profondità. Cioè, quanta gente lo fa? Boh, io conosco solo me, poi ci saranno altri, ma io conosco solo me. Quindi questa profondità qui è un dono, ha un suo prezzo, non è un prezzo basso, sarebbe bello. Che stupido, ho letto adesso il messaggio di Federico Bonelli che mi dice che lui ascolta tutto perché poi mi critica. Madonna, che sbatta incredibile, potresti criticarmi e basta, cioè senza dover ascoltare un'ora di me che parlo. Magari semplicemente anche a te piace il suono della mia voce calda. E no, so dire, cioè la mia profondità, la mia capacità di raccontare il mondo così è il servizio che metto a disposizione di chi ha voglia di usufruirne, di trarne ricchezza. E devo dire che ce n'è. Va bene, ho parlato 55 minuti, ce l'ho fatta, una fatica immane. Adesso vi mando l'ultimo pezzo, un pezzo pesantino a dir la verità. È un pezzo che però questa settimana è uscito due volte fuori dei discorsi, assolutamente così, nel senso senza che venisse chiamato in nessun modo, un pezzo che non sentivo da decenni. E quindi lo metto in onda semplicemente perché credo alla sincronicità, cioè se questa roba qui, che non si capisce da dove esce, non si capisce, cioè non è neanche uno dei pezzi della mia vita, è semplicemente un brano che quando ero ragazzo si ascoltava molto, è saltato fuori in due discorsi diversi, in tempi e momenti diversi, da persone diverse, così, out of the blue, beh, vorrà pur dir qualcosa. Quindi vi lascio con DJ Graff. E vi ringrazio di essere riusciti ad arrivare fino a qua. Se ci siete riusciti, siete veramente, veramente bravi. Bravi, mi congratulo. Ciao Fred, ciao Radio Antidoto. Vi abbraccio forte. Buona domenica e buona serata. La gente prende piede. Taluni facendo finta di niente, tal'altri facendo finta e basta. Va di moda essere vaghi sulle cose della vita. Fa figo essere costipati nell'impossibilità del fare. Dice, ma io ci provo, faccio del mio meglio. Così mi han detto svariati sacri, cercando di giustificarsi. Idioti. È come se uno dopo aver cagato si pulisce con la mano e quella cazzo di mano vuole stringere la mia, giustificandosi sul fatto che in questi tempi non si trova carta igienica. Sacra. Tuttavia questa è la realtà e io un cantava, su queste storie faccio il rap, il sucker è per sé. Sucker per sempre. Friggi le polpette nella merda, buon appetito, sfoggi chili di mostarda sul tuo pranzo ben riuscito, lieto, io sono molto lieto di non fare mai lo sbaglio di sedermi a questa tavola di stronzi, mi pare di rivivere Happy Days, dove c'è Fonzi che mi sta sul cazzo. Ammazzo il tempo, sentendo in ogni pezzo un sucker. Abbiamo tutti diritto, eh. Un sucker resta a sucker. Non si può giocare il calcio con le pinne, non puoi mettere la roba nelle canne. Babbione, fatti furbo, è ora che ti svegli. Campionati sto suono e facci il disco per l'estate. Sucker, a parte le stronzate, la tua non è voce in capitolo. Non fai testo, sei un testicolo nel posto sbagliato. Ho contato un centinaio di coglioni come te in cerca di fortuna, pronti a bere biscia per un po' di fama. Confessa, dillo che sei un povero babbione di merda. Dillo che sei un pirla. Ti trovi in giro con diversi nomi, diverse situazioni, sempre comunque imitazioni. Sarai sempre il succedaneo dei più scemi. Questo è il tuo destino, il destino degli scarsi. È inutile opporsi. Idiota, non fai attrito, rimbambito, evapora. Supera la luce, specie di incapace, pusillanime. Per te il verdetto è stato unanime. Sai fare. I sucker come te rovinano la scena. Dal mio mondo per te piove merda. Un mare di merda dove puoi nuotare. Per quelli come te è inutile studiare. In testa è solamente una quantizzazione, la più sbagliata. Sei la persona meno indicata per la nobile arte del rap. Porta il tuo culo, prensile in là, fora dai bar, sucker jump. Deficiente, come ti è venuto in mente anche per un solo istante di esserti inserito, rincoglionito se non l'hai capito. Il tuo tempo è ormai scaduto, fine, game over, the end. Porta la tua band a Disneyland, I understand. Omacini, sin salabin, sparisci, smi. Negativo come il polo di un magnete, ti respingo, bella don. Here I come, bella Sean, e vi aggiungo io ste bene, bella soul. Canta a bar, scuola aliena, senti come suona. Rigonia.